C'era una volta un giardino incantato, un castello fatato, pieno di sogni, dove il male non poteva entrare mai. Ed era pieno di re, regine, principi, fatine, maghi, elfi, streghe buone che ti guidano su quel sentiero d'oro. Alice che riceve un consiglio dal bianconiglio, senza tempo non è bianco, forse giallo, e lo bacerà. Hansel, Gretel, la casa al cioccolato non è, no non è. Il suo gusto è gelato amaro, se l'assaggi costa caro. Quando Pollicino uscirà dalla sua favola, non tornerà più indietro, se sarà tenace battagliero. Quando lascerà sul suo passaggio un'altra briciola, saprà guardarsi avanti senza rinunciare ai suoi ricordi. Quando Pollicino se ne andrà dalla sua favola, vivrà nel mondo vero, il mondo vero che vivrà per lui. E Cappuccetto Rosso corre più non posso verso la sua nonna, la mangiata è lui. Il cacciatore non la salverà. Nel paese dei balocchi quanti pinocchi, non ritorneranno più bambini, resteranno sempre asini. Cenerentola al ballo non si presenta più, no non più. La scarpa di cristallo nuova non si perde, non si trova. Quando Biancaneve scoprirà la sua matrigna, il suo principe azzurro sarà solo un lampo passeggero. Frutto dell'amore, mela rosso, verde pigna, non è nel bosco giusto, ma dovrà scalare la montagna. Quando Biancaneve sfiderà la sua matrigna, vivrà nel mondo vero, il mondo vero che andrà avanti ancora. Quando Biancaneve uscirà dalla sua favola, il suo principe azzurro sarà solo un lampo passeggero. Quando Pollicino lascerà giù un'altra briciola, vivrà nel mondo vero, il mondo vero che vivrà per lui.